La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, venerdì 13 di giugno, sono le 16.36 primi. Oggi, siccome siamo bravini in questo periodo, non bravini, brevini, perché c'è più pubblicità del solito, vado immediatamente al punto. Dovrebbe iniziare verso le 17, magari entro una mezz'ora successiva, il Consiglio dei Ministri oggi, dal quale fuoriesce, vediamo se sarà un decreto legge, un disegno di legge. Sembrava che fosse una delega e un breve decreto legge, adesso invece le anticipazioni dei colleghi dicono praticamente quasi tutto in decreto legge, non riesco a capire come. Comunque, di riforma della pubblica amministrazione, moltissime norme attese, inutile parlarne sui punti più delicati, cioè la mobilità in che ambito territoriale, gli eventuali esuberi prima affermati poi negati, lo vedremo sul testo, non facciamo gli aruspici. Però una cosa tra quelle sicure pare confermatissima, l'avevamo anticipata ieri, di fronte all'incredulità del fatto che sia confermata mi sono detto facciamoci una puntata e chiediamo agli addetti ai lavori, agli esperti, come la valutano. È esattamente quella di un ritocco, chiamalo ritocco, di un aumento del 12%, del bollo auto, sia pure in presenza della tanto attesa norma di semplificazione rispetto alle diverse competenze concorrenti sul registro automobilistico tra PRA e ACI. Si fa la semplificazione, però lo Stato per questo ci chiede il 12% in più da subito, quest'anno vigente, quindi quella va in decreto di sicuro, è inutile che vi illudiate. Allora, siccome del mercato automobilistico ce ne siamo occupati tante volte, sta come sta, ma proprio sta tornato indietro a livelli degli anni 70, abbiamo parlato più volte della filiera dei concessionari, dell'automotive e così via. Io devo dire la verità, sarò limitato, io non voglio fare polemiche verso il governo, sarò limitato, ma non capisco come si possano reiterare certi errori. Però, visto che evidentemente non ne so abbastanza, abbiamo chiamato due interlocutori e li sentiamo oggi, vediamo cosa ne pensano loro. Iniziamo con il direttore di una delle testate di riferimento storica del settore, che ha fatto la storia del giornalismo non solo in Italia, in Europa e per certi versi anche in certi periodi nel mondo, per le quattro ruote, cioè appunto quattro ruote. Abbiamo con noi il direttore di quattro ruote, Gianluca Pellegrini. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, lei come, posso chiedere, come la prende questa certezza del 12% in più del bollo? Come la spiega? Ma io non la spiego, io non ho nessun timore a entrare in polemica col governo, nel senso che questa è una stupidaggine sesquipedale. Cioè, stiamo parlando, in realtà non stiamo parlando di un aumento generalizzato al 12%, cioè sappiamo che quello che chiamiamo bollo, ovvero la tassa di possesso, finisce nelle tasche delle regioni, no? Ecco, le regioni, ogni regione ha la possibilità di aumentare questa quota di rincaro, fino ad adesso era del 10%. Si dava facoltà alla regione di poter aumentare il 10%, ecco, adesso si vuole aumentare il 12%. Allora, ci sono alcune regioni che l'hanno fatto, alcune regioni che non l'hanno fatto, che non hanno applicato questa possibilità. Mi sembra abbastanza evidente che... Quindi tradotto è un aiuto alla finanza pubblica scassata in alcune regioni, insomma, per essere chiari. Ma di fatto sì, insomma, è il solito giochino delle tre carte, cioè si toglie da una parte per rinfilare le tasse dall'altra. E quindi dicevo, mi sembra abbastanza evidente che nel momento in cui si riconosce un aumento a questo diritto, molte più regioni lo eserciteranno questo diritto, e quindi insomma, in un modo o nell'altro, chi più chi meno, alla fine l'automobilista sicuramente pagherà di più rispetto all'anno scorso. Ecco, naturalmente ricordiamo, sull'auto in quanto tale, cioè dall'acquisto, la registrazione, la compravendita, lo smaltimento dei pneumatici, degli oli e così via, gravano più di 20 imposte complessivamente, quindi stiamo parlando di un settore, malgrado la cui crisi, lo Stato piglia un mucchio. Però la concomitanza, direttore, con l'intervento di semplificazione, a questo punto non è veramente l'ironia e la beffa? Ma, effettivamente, no, ma la cosa curiosa è che io a questo punto mi domando, ma insomma non ci si rende conto di quanto siano controproducenti queste cose? Ovvero, vero, a forza di aumentare le tasse sull'auto, sia quelle dirette che quelle indirette, cioè, ricordiamo l'introduzione delle accise sui carburanti, esatto, negli ultimi due anni è stato una sorta di tiro al bersaglio, continuando a aumentare queste accise. E tra l'altro, se sono vere queste voci che sentiamo nei corridoi di Roma, si sta pensando a un'ulteriore accisa entro settembre, allora tu il combinato disposto di tutte queste cose sta generando in realtà un'enorme perdita per lo Stato, cioè nel momento in cui aumenta così tanto la tassazione, vuol dire le vendite, come diceva giustamente lei, sono crollate non agli anni 70, ma addirittura agli anni 60. Ah, certo. Cioè le vendite ai privati sono ritornate ai tempi in cui gli italiani compravano la 500 e la 600 a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60. Ora, questo crollo delle vendite di fatto ha comportato un crollo in termini di gettito IVA per lo Stato enorme, cioè un buco fiscale di circa 300 milioni di euro, cioè una roba impressionante. Quindi tutto questo in realtà sta creando un danno non soltanto al settore specifico, che sappiamo benissimo come sta vivendo questa crisi, cioè stanno chiudendo i concessionari, ma la gente compra meno macchine, insomma la gente utilizza meno macchine, e quindi anche il settore dell'assistenza sta soffrendo moltissimo. Un'altra stupidaggine è l'introduzione del superbollo. Due giorni fa si era detto che probabilmente in questo intervento si sarebbe tolta quest'ennesima stupidaggine del superbollo, che anche lì ha creato un buco, perché in realtà lo Stato pensava di guadagnare tanto, in realtà si è creato minori entrate per circa 140 milioni di euro, 93 soltanto per quanto riguarda l'IVA. Ecco, è durato un giorno e mezzo. Superbollo appartiene a quella classica serie di interventi assunti, per così dire, con criteri patrimoniali contro i ricchi, come abbiamo fatto per esempio con la tassa che prima doveva essere di possesso, poi di stazionamento sulle barche, che ha distrutto l'intero settore e regalato migliaia e migliaia di barche ai porti delle nostre nazioni concorrenti, come ovvio. È un malinteso senso di redistribuzione, insomma, della crisi, non so come dire, cioè sembrano delle decisioni prese più che altro per accontentare alcune parti sociali, tanto per dire tutti quanti dobbiamo fare sacrifici. No, ma la cosa che non mi spiego è che dopo anni di verifica degli effetti su questi, il settore dell'auto insieme alle costruzioni sono i settori più massacrati come perdita di valore aggiunto, superiore al 40% in questi anni di crisi su tutti i settori industriali. Allora, di fronte all'effetto verificato addirittura da parte del governo di perdita di getto una volta che uno aumenta, loro continuano e aumentano? Ma effettivamente è questo che non si riesce a capire, per quello dicevo che io non ho nessun problema a mettermi in polemica con il governo. L'altro esempio clamoroso secondo me è la benzina. Si è sempre pensato che il consumo di benzina fosse uno dei consumi anelastici di questo paese, ovvero che rimanesse sostanzialmente stabile negli anni. Ecco, negli ultimi due anni noi abbiamo visto una flessione delle vendite, cioè soltanto nel 2013 stiamo parlando del 3-3,5% per quanto riguarda le vendite di carburanti. Ecco, questo secondo le stime dell'Unione Petrolifera, se non vado errato, ha generato un buco di 950, un miliardo di euro. Sì, un miliardo di euro. Ora, a questo punto mi sembra quantomeno curioso che da una parte lo Stato ritenga di regalare 80 euro ad alcune persone, dall'altra parte però assuma delle decisioni che creano dei buchi da miliardi di euro. E creano buchi, oltretutto, che sono regressivi sul reddito, perché come è evidente, per chi ha meno reddito disponibile l'aumento dell'accisa, quindi del costo finale alla pompa del carburante, colpisce in termini proporzionali di più chi ha meno reddito. Quindi è la cosa che anch'io effettivamente non capisco. La stessa cosa per chi è in ascolto sta avvenendo, a quanto pare, per il tabacco. Di fronte a 600 milioni in meno di raccolta di accisa sul tabacco l'anno scorso, stanno pensando di aumentare la componente fissa dell'accisa. A me sembra una follia, però francamente mi sfugge proprio come diavolo giustificarla questa cosa. Alcuni ascoltatori ci chiedono: ma per chi lo ha già pagato c'è la possibilità, se poi la regione adotta la sovraliquota concessa, anche di pagare retroattivamente? Dipende, perché qui bisogna vedere come è congegnato il decreto. Esatto. Comunque se è in decreto è vigente subito, quindi in teoria non escludo l'ipotesi. Come devo ricordare a chi è in ascolto, che dobbiamo oramai considerarci abituati a tassazioni retroattive nel tempo, perché purtroppo avviene. Quindi se qualche regione disperata questa facoltà la esercita subito, può essere pure che siate chiamate all'integrazione. Direttore, dai numeri mi pare che i numeri degli ultimi mesi non è che consentano di immaginare che c'è sta grande ripresa, o no? No, assolutamente. niente, la ripresa degli ultimi mesi che abbiamo visto, che tra l'altro è abbastanza relativa perché stiamo parlando di qualche punto percentuale, di fatto è sostenuta dalle vendite business, ovvero le flotte, i noleggi, queste cose qua. Io facevo riferimento prima al mercato dei privati, il mercato dei privati continua a scendere anche in modo abbastanza netto, 3-4% al mese, quindi l'automobilista in realtà si sta allontanando dall'automobile, non soltanto per quanto riguarda l'acquisto ma anche per quanto riguarda l'utilizzo. Questo qui è un mondo che si tiene assieme, cioè non è soltanto, come molto spesso credono i politici, si vendono meno macchine, e molto spesso quando si cita questa cosa si prende come riferimento la Fiat, certo. No? Perché in Italia si è abituati per una sorta di meccanismo, di automatismo cerebrale a pensare l'automobile come se fosse la Fiat, in realtà non è così, anzi la Fiat magari è una di quelle che perde di meno. Ecco, sta proprio perdendo importanza il settore dell'automobile perché la gente lo utilizza di meno. Quello che però io mi chiedo, in un paese dove la demonizzazione dell'auto ha raggiunto dei livelli onestamente grotteschi, e stiamo parlando dell'atteggiamento di molte amministrazioni comunali che se ne inventano di tutti i colori, dove si prende l'automobilista come una sorta di San Sebastiano infilzato in continuazione dalle tasse nuove, dove di fatto l'automobilista viene utilizzato come un bancomat ambulante per coprire i buchi delle casse dello Stato, quando poi improvvisamente ci si rende conto che questa politica ha dei riflessi sull'occupazione, improvvisamente tutti, le industrie dell'auto dobbiamo difenderle. Vorrei ricordare per esempio il caso della Bridgestone dell'anno scorso. La Bridgestone ha una fabbrica di pneumatici in Puglia. Quando ha detto, dopo affrontando la crisi, come conseguenza della crisi, dicendo a questo punto il mercato italiano non è più un mercato ricettivo per la nostra produzione, sì, a questo punto lasciamo l'Italia, apriti cielo. Certo. Tutti quanti hanno alzato gli scudi dicendo i giapponesi non si possono permettere di abbandonare il nostro paese, però ci dobbiamo rendere conto che se questa è la politica nei confronti dell'auto, è abbastanza evidente che gli imprenditori e i grandi gruppi internazionali iniziano a vedere l'Italia come un paese dal quale uscire, ma dal quale scappare. Totalmente residuale. Ma non c'è dubbio, perché i numeri questo ohimè disegnano come prospettiva. Certo però che lo Stato così incarognendo, io uso il verbo incarognendo alla cieca, ovviamente aggrava la situazione. Allora abbiamo adesso 60 secondi di informazione stradale. Ci dice un altro ascoltatore: guardate che il Superbowl serviva a importare meno macchine dalla Germania. Hai un'idea un po' protezionistica diretta degli effetti a sostenere questa tesi? Comunque l'effetto è stato il buco nel gettito, e peggio è andata ancora poi, ma semplicemente perché il settore dell'auto è più esteso e più intenso come profondità di raccolta, ma la cosa nella nautica è stata idem con patate, cioè lo Stato che crede di colpire e incassare si ritrova col buco dentro e con effetti devastanti sull'economia, perché a rimetterci non sono i ricchi, capite, possessori di automobili, sono quelli che lavorano per le manutenzioni, nelle officine, nei concessionari, eccetera eccetera, come per le barche. Se non vengono le barche nei porti, secondo voi chi è che perde il lavoro? Chi lavora nei ristoranti, nei cantieri, eccetera eccetera? Ora ci vuole che cosa per capirlo? Non lo so, mistero per me. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, stiamo parlando di questo aumento della componente regionale del bollo fino al 12% che sarà disposto per decreto, pare oggi, il Consiglio dei Ministri sull'auto, e abbiamo sentito il direttore di Quattro Ruote Gianluca Pellegrini, in realtà ha dubbi come me e peggiori dei miei. A chi in ascolto segnala, ma me ne ero reso conto perché io stamattina sono stato a Treviso a fare un convegno con l'associazione dei commercianti, so dell'approvazione del Consiglio regionale Veneto della regia regionale che consente il referendum, ne riparleremo dell'indipendenza, quindi i nostri ascoltatori veneti, io tornerò a parlarci sopra, anche perché tra il voto in Scozia e quello in Catalogna e nella parte finale di quest'anno saranno i due eventi che scuoteranno di più l'Europa, questa è la mia previsione. Detto questo, adesso continuiamo a parlare di questo aumento della tassa sul bollo e ne parliamo con il presidente di Federauto, che è Filippo Pavan Bernacchi, ringrazio di essere con noi. Federauto, quindi, per intenderci, stiamo parlando di una componente fondamentale di quelle che appunto paga il conto della crisi, cioè i concessionari. Presidente, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. Come stanno le cose intanto nel settore negli ultimi mesi? Qualche segno positivo oppure no? No, noi ricordo che fatturiamo come auto tra vendita e assistenza 70 miliardi all'anno, e siamo uno dei primi contribuenti italiani partecipando alle entrate fiscali nazionali per il 16,6. Siamo, come accennava prima il direttore di Quattro Ruote Pellegrini, in crisi, perché chiuderemo l'anno 1.350.000 vetture, è l'anno più o meno che ci riporta indietro di 35 anni, al 1979, se invece teniamo conto solo del mercato dei privati, allora arriviamo alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60. Siamo il fanalino di coda europeo perché siamo l'unico Stato europeo che ha adottato negli ultimi 3 anni un attacco concentrico a chi acquista e utilizza un autoveicolo, fatto a suon di tasse, dall'aumento dell'IVA dal 20 al 22, ogni punto dell'IVA su un'auto sono 220 euro, abbiamo aumentato l'imposta provinciale di trascrizione, le accise sono aumentate 7-8 volte in 3 anni, adesso aumenteremo il bollo per non farci mancare niente, abbiamo varato il superbollo per le auto prestazionali e ha distrutto anche quel settore, abbiamo alzato le imposte sull'RC, sui pedaggi autostradali, quindi è proprio una strategia che forse non è neanche una strategia voluta, ma noi siamo proprio il banco. Perdoni, io non, sì, al settimo anno di crisi non ce la faccio più a dire, certo, non è una strategia voluta, ma con chi, nelle mani di chi siamo? Perché io penso che sia la solita trovata della ragioneria generale per ammazzare soldi, cioè mi rifiuto di credere che Padoan o Renzi possano pensare cose simili, ma il grave è che le mettono nei decreti, perché io, scusi se glielo chiedo, quando come noi tutti avete saputo qualche giorno fa che c'era questa ipotesi, voi cosa avete fatto? Immagino abbiate tentato di mandare qualche segnale al governo per dire: ma siete matti o no? Noi abbiamo colto l'occasione, intanto stiamo parlando con gli ultimi 3 governi in maniera assidua e abbiamo visto che hanno fatto esattamente il contrario di quello che chiedeva tutta quanta la filiera. Anche perché vi avevano detto: vi apriamo un tavolo dell'auto con Zanonato, ecco, e così via. Ecco, è stato aperto un tavolo dell'auto, abbiamo perso tempo con il ministro Zanonato, ma era chiaro da subito, perché il primo incontro ha detto che si prendeva come arco temporale un anno, quindi quando c'è un'emergenza non si può ragionare in termini di un anno. Adesso questo tavolo è stato riproposto, andremo mi pare a fine mese. Ci andrete randellati però, perché tanto non si sente prima, andarci dopo le misure sarebbe un po'. Ma io ritengo che ci siano delle misure che si potrebbero fare per l'auto e io non ho ancora perso la speranza che anche questo nuovo esecutivo possa non spremere l'automobilista o anche spremere gli italiani, perché per esempio una cosa che non è stata detta è che probabilmente verrà tolta l'imposta provinciale di trascrizione, che vale circa 200 euro sia sul nuovo che sull'usato, però viene fatta una tassa nuova che è l'imposta regionale e quindi se viene fatta come con le ultime imposte, magari l'imposta regionale peserà più dell'imposta provinciale, quindi era meglio tenerci quella precedente. No, quello che noi chiediamo al governo è: allora non variamo degli aiuti per il settore, ci siamo, però togliamo l'acceleratore dalla pressione fiscale su chi acquista e utilizza un autoveicolo, perché stanno comprimendo i consumi interni valgono l'80% del prodotto interno lordo, noi fatturiamo l'11,3% del PIL, quindi se vogliamo far ripartire questo paese devono ripartire i consumi. Aspetti un secondo, sentiamo l'ascoltatore Francesco da Sassari. Francesco. Buonasera, dottor Giannino. No, Giannino e basta. Come la pensa? La paga volentieri la nuova tassa? Io le voglio dire una cosa. Io faccio il camionista, cioè ho 54 anni. Sì. Io penso che sia un giro... Non so il governo cosa c'ha in testa. Perché invece di aiutare a comprare macchine nuove, macchine vecchie... No, perché un passaggio di proprietà. In Italia ci vogliono dalle 500 andare su. Lo so, e mi pare che non stiamo andando verso gravi. Io non voglio aiuti, però vorrei che cessassero le botte in testa. Il tempo è finito, ahimè. E quindi continuate il Radio 24, appuntamento come a domani. Grazie al direttore di R4 Ruote, al presidente di Federauto.